Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Sono trascorsi 2 anni da quando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato una nuova stagione di interventi per rendere più snello e competitivo il sistema logistico nazionale. Dalla cura del ferro alla cura dell'acqua, fino al rinnovamento della portualità italiana, sono numerose le azioni pianificate e quelle già messe in campo. I primi risultati di questa politica iniziano a vedersi, con una ripresa dei traffici ferroviari e portuali, ad esempio. Ma la strada da percorrere è ancora lunga. Di strategia a medio e lungo periodo si è parlato a Roma, durante un incontro organizzato proprio dal Ministero. Quali i prossimi passi da compiere per un sistema logistico realmente integrato col sistema produttivo ed economico del Paese? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Un mondo che ha sempre più le attenzioni da parte dei governi, anche perché l'evoluzione e lo sviluppo del mondo dei trasporti e della logistica accompagna di pari passo lo sviluppo dei mezzi produttivi, dell'economia di un paese. Tant'è vero che molto spesso si dice che il mondo dei trasporti è un po' la cartina del tornasole dell'evoluzione produttiva e dell'andamento produttivo di un paese. Proprio qualche giorno fa, presso il Ministero dei Trasporti, è stato fatto un po' il punto delle iniziative messe in cantiere in questi ultimi anni per l'evoluzione di questo mondo dei trasporti, e noi ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è il professor Vittorio Marzano, componente del gruppo di lavoro che all'interno della struttura tecnica di missione ha analizzato le criticità della logistica e ha fatto anche alcune proposte per la sua evoluzione e il suo sviluppo. Buon pomeriggio, professor Marzano, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi, grazie. Allora, dicevamo, tante le criticità che sono state affrontate, tanti gli argomenti che in qualche modo coinvolgono un mondo molto complesso come quello dei trasporti e della logistica. In questi ultimi mesi, in questi ultimi anni abbiamo visto da parte del Ministero dei Trasporti diverse iniziative che riguardano questo settore. Sono state appellate con dei nominativi di fantasia, la cura del ferro, la cura del mare, ad indicare questo trasferimento modale di merci dalla gomma alla ferrovia nel primo caso, al mare nel secondo. Ma come sta andando questo trasferimento? Sì, innanzitutto appunto i nomi di fantasia comunicativi hanno in realtà rappresentato al pubblico un integrato e ambizioso progetto di nuova stagione di pianificazione per le infrastrutture e i servizi di trasporto e logistica. Questo credo che sia la notizia più importante, l'impronta più importante che il Ministero ha dato dal 2015, dall'insediamento del Ministro Del Rio, e il riferimento di questa attività di pianificazione è quanto declinato nelle strategie e negli obiettivi del documento Connettere l'Italia e allegato al documento di economia e finanza del 2016. Quindi a partire da queste strategie, da questi obiettivi integrati, il Ministero ha poi declinato una serie di azioni operative. Simbolicamente ha iniziato con il piano strategico dei porti della logistica del 2015, il rilancio del trasporto ferroviario e gli interventi sul sistema mare, quindi la cura del ferro, la cura dell'acqua che lei citava prima, fino ad arrivare alle scelte infrastrutturali che si sono tradotte nei 108 programmi allegati al documento di economia e finanza del 2017 e altre attività sul cargo aereo, sulle aree logistiche integrate. Entriamo nel dettaglio di queste modalità, cominciamo proprio dal ferro. I dati che sono stati forniti nel corso di questo incontro parlano di un incremento importante del trasporto di merci su rotaia in questi ultimi mesi. I risultati sono assolutamente confortanti. Il ferro aveva perso significative quote di mercato dal 2007 fino al 2014 e quindi l'azione di rilancio che è stata intrapresa intervenendo su 3 pilastri, infrastrutture, semplificazione e incentivi, ha prodotto dei risultati con una crescita che, secondo i dati ultimi della direzione del Ministero, parlano di più del 4% anno di crescita in termini di treni chilometro. Con in particolare i traffici merci da verso il sud Italia che crescono ancora di più, e, cosa ancora più importante, con enorme vitalità delle connessioni ferroviarie da verso i porti. Quindi la visione strategica è quella di un sistema ferroviario che naturalmente è sostenibile dal punto di vista ambientale e che, per quanto riguarda l'integrazione con i porti, deve garantire l'allargamento delle catchment area dei porti stessi. A proposito di porti, passiamo alla modalità marittima, che è un'altra modalità che ha avuto un'importante crescita in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, ma su cui insiste anche una riforma delle autorità portuali che ormai dovrebbe essere giunta a suo compimento. Sì, in realtà la riforma che era appunto disegnata dal piano strategico del 2015 si può dire quasi attuata nella sua interezza, con provvedimenti normativi attuativi che si sono succeduti nel tempo. Le 15 autorità di sistema portuale hanno quasi tutte iniziato a lavorare a tempo pieno. Cosa molto importante, la conferenza nazionale dei presidenti si è insediata sotto la guida del ministro ed è operativa, e questo rappresenta un importantissimo momento di coordinamento centrale, condiviso e partecipato delle scelte poi di pianificazione di mercato che i singoli scali portuali naturalmente fanno nei rispettivi cluster. E che chiaramente il sistema mare abbia recepito positivamente in termini di traffico, in termini di ripresa, gli effetti di questa riforma lo dicono i numeri. Insomma, vediamo che il traffico marittimo è cresciuto di molto negli ultimi due anni, si parla di più 5,2% dal 2014 al 2016, le proiezioni per quest'anno ci dicono che il traffico container crescerà di più del 5%, addirittura il traffico RoRo, che è quello che, come dire, connette di più l'Italia all'interno del bacino euromediterraneo, addirittura quasi del 10%, quindi con importanti valori di crescita, e anche come semplificazione doganale un altro dato interessante è che la World Bank nella sua classifica Doing Business addirittura ha portato l'Italia dal 38esimo al primo posto per l'indicatore Trading Cross Borders, che è un indicatore di quanto efficiente sta diventando il momento doganale del nostro paese grazie alle semplificazioni e grazie alle innovazioni apportate. Sì, proprio su questa semplificazione doganale si è concentrata molto l'attività del Ministero in questi ultimi mesi, anche perché venivamo da una situazione davvero estremamente complessa. In realtà questo gruppo di lavoro istituito presso la struttura tecnica di missione del Ministero dei Trasporti aveva anche un altro compito, cioè quello di disegnare un po' degli scenari, di capire quali saranno le criticità del futuro e come affrontarle. Innanzitutto un primo input che è stato dato ha riguardato la necessità di sviluppare delle analisi quantitative e di sviluppare ulteriormente la cultura del monitoraggio, della raccolta dei dati che il Ministero in realtà sta facendo proprio in questa sua azione e che deve essere ulteriormente rafforzata. Ci sono tematiche rilevanti come gli scenari demografici che porteranno naturalmente il nostro Paese a cambiare i consumi finali e le richieste di trasporto merci e logistica. La dematerializzazione dei consumi è un altro degli elementi rilevanti su cui bisognerà effettuare delle analisi quantitative, e anche sulle iniziative che possono rappresentare delle grandi opportunità di cambiamento per la logistica, soprattutto del sud Italia, penso alle zone economiche speciali, ecco, anche lì bisognerà quantificare attentamente le necessità di trasporto e logistica ad esse collegate e quindi poi progettare e pianificare il miglior sistema di trasporto utile per sostenerne la crescita. Ecco, ci sono anche delle evoluzioni importanti, come quelle che riguardano la distribuzione cittadina delle merci, cioè delle evoluzioni che avranno degli impatti importanti anche sui singoli cittadini, su tutti coloro che non sono coinvolti direttamente nel processo logistico. Come dovranno essere affrontate queste emergenze? Bene, sul tema della City Logistics in particolare, il Ministero ha avviato con la struttura tecnica di missione un tavolo di lavoro. Ovviamente il tema della City Logistics è particolarmente importante perché le statistiche a livello europeo ci dicono che, a fronte dell'essere una quota relativamente piccola dei veicoli totali che circolano in città, i veicoli merci in realtà poi contribuiscono per molto alle emissioni inquinanti. Chiaramente c'è un'esigenza di razionalizzazione, di riduzione dell'inquinamento della carbon footprint di questi veicoli, ma al tempo stesso bisogna chiaramente salvaguardare le attività logistiche e anche industriali che a volte ci sono, spesso ci sono nel centro delle città, e quindi, come dire, garantire al tempo stesso che l'accessibilità e il livello di servizio ai clienti non venga peggiorato. Su questo devo dire che molte città metropolitane italiane sono molto attive sul tema con progetti pilota, con azioni. Si è notata un'eterogeneità anche solo di conoscenza del fenomeno, per tornare al punto che sottolineavo prima, per cui mentre alcune città sono particolarmente avanti anche nella quantificazione dei flussi, nella conoscenza delle supply chain che a questi flussi sono collegati, in altre città c'è oggettivamente anche solo un ritardo di conoscenza, in questo gli interventi di City Logistics non possono non essere poi collegati alla disciplina dei piani urbani della mobilità sostenibile, quindi anche qui ci vuole una visione integrata. E secondo me il salto culturale che dovrà poi essere fatto è quello di non limitarsi a pensare al veicolo merci che entra in città e a come in qualche modo evitare che impatti il più possibile sul sistema urbano stesso, ma a capire quali sono le supply chain e la logistica che c'è dietro e quindi progettare un sistema che sia nel complesso sostenibile, con l'accezione di sostenibilità che è data certo. Da connettere l'Italia. Bene, si chiude qui anche questa puntata di oggi di Container, una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Il nostro indirizzo email container@radio24.it. L'appuntamento con la nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13.15 circa, ma vi ricordo anche l'appuntamento con #autotrasporto lunedì alle 13.30 con Andrea Ferro. Per ora un saluto a tutti da Massimo De Donato.